Kid Yugi Defa 64 bars Shamana. Ora che lo sponsor paga per ste rime esplicite, sarò il nemico pubblico, il nuovo John Dillinger, disgusto la platea. Olocausto cannibale mentre mangio plateau in un posto incredibile. L'industria mi vorrebbe più accessibile, più vendibile, ma il male mi ha sedotto, l'odio irresistibile. Sono schiavo degli eccessi, ogni notte spinto al limite. Tu non hai mai visto un cazzo come le bambine piccole, in mezzo agli zombie come in Z Nation. Scene di violenza, droga e sesso come in un film serbo. Sono il conto da pagare, il sacrificio del cervo. Sono pronto al brainwash, pronto al peggio. MD al posto del caffè nel termo. Son merda che ti porta indietro nel tempo come l'abstergo. Sto tra i narcotrafficanti, import export tossici, vogliono la bianca come Charles Manson. Angeli di ferro come in Evangelion. In 100 secondi sparisce una Stelvio. Lattine non fanno dormire, non c'entra la Red Bull. Mostri sotto al letto, prendo gli acidi e vedo le Bector. Io non fumo un po', io non gioco a PES. Mi addormento per le tre, non c'entra lo stress. E making hot ne HF che mecan. Mettimo sotto a che se ci scendo ci dressen, ci spacchiamo a gap. Ogni tentativo di fermarmi inutile. Successo, alcol, troie, sono dentro al turbine. Droga, sono ancora succube. Se vuoi problemi, ti mando a fare box con gli angeli su un ring di nuvole. Mangiavamo le patate come il quadro di Van Gogh. Oppure mangiavamo l'oppio, Hector Allan Poe. 400 colpi in canna come il film di Truffaut. Un ditalino al pianoforte, tocco la Blue Note. E io Defa, siamo ancora a metà. Siamo un momento per metabolizzare. Vengo dalla merda, ma safra, non ho mai visto un turista. Dentro le trappole da piccolo, anche se ero un purista. Sigarette a contrabbando, qualche amico scafista. Ora che parlo da sofista e scopo più di un tronista, più perle di un aforista. Ho visto più piccioni di una brava estetista, più roba di un farmacista, più droga del sangue di un tossico, più troie di un pappone, gli stessi soldi di un lobbista. La prima volta che votai mi hanno dato 50 euro per mettere X una lista. Gli tu alzi 50 euro sul foglio, disegni una minchia, lo rifarei per sempre solo per ripicca. E non chiedermi il fit, troia, io non collaboro. Kid Yugi, Francesco, i nomi del diavolo. In Keyola all'alba mi sento che evaporo. Al mondo vince il più forte, non è una sfera, è un ottagono. Ho preso quattro cose e sto aspettando che salgano. Dopo le tre di notte disinvolto col Parkinson, la faccia di Rowan Atkinson. Ho 10 femminoni addosso, la mia ex mi fa l'affascino. Shaman, stendo sul disco di platino. Ho il rosso in paillette, un taglio armocromatico. Tartufetti, faccio un volo pindarico. Ho preso un Daytona, ma sto puntando all'Aquanaut. Shaman, fra, mi sento rinato. Il successo mi ha cambiato, mi sono sistemato. Prendo casa a Massafra e casa a Milano, ma non scordo da dove vengo, non me ne sono mai andato. 61 per il team, Young Trap colpo di stato. 62 per chi mi odia perché è stato calpestato. 63 per sta musica, ciò che mi ha salvato. Manda sta merda in replay, siamo alla 64.